Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo come sempre alcune informazioni di servizio. La prima riguarda il nuovo sito di Radio 24, nel quale potrete trovare sicuramente delle facilitazioni nella consultazione di quelli che sono i nostri programmi e soprattutto la possibilità di scaricare quasi in tempo reale, oserei dire, tutta la programmazione di Radio 24. C'è la possibilità di abbonarsi anche via podcast, insomma un sito arricchito, multimediale, che è sicuramente un passo avanti nell'interlocuzione con i nostri radioascoltatori. La seconda informazione di servizio è il mio blog, lo trovate tanto sul sito di Radio 24 quanto sul sito del Sole 24 Ore, lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri. L'ultima informazione di servizio è quella che riguarda la nostra mail, che è unabusoalgiorno@radio24.it, alla quale potete rivolgervi per segnalare i vostri abusi o quelli che voi crediate siano degli abusi, così come ha fatto il nostro radioascoltatore Stefano Bertolotti, che ci ha segnalato quella che ha chiamato una odissea con una compagnia aerea, Air Europa, che è una compagnia aerea spagnola ma che ha sede anche in Italia. Allora, intanto io do il buongiorno a Stefano Bertolotti. Buongiorno Bertolotti. Buongiorno a tutti, buongiorno. Al direttore di mercato di Air Europa per l'Italia, Roberto Aitai. Buongiorno Aitai. Buongiorno. E a colui al quale spetta l'onere e l'onore di dare una parola, come dire, finale di giudizio sulla vicenda che ascolterà, l'avvocato Vittorio Buonaguidi, che è il legale dell'associazione di consumatori Telefono Blu. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti. Allora Bertolotti, racconti un po' qual è stata la sua odissea con questa compagnia aerea. In partenza appunto per un viaggio in Argentina, era un viaggio di piacere con la mia ragazza, ho deciso di prenotare l'aereo tramite il volo aereo tramite quei siti che offrono appunto le tariffe più vantaggiose, e avendo deciso di andare in un periodo di festività immediatamente dopo Natale, a cavallo tra Natale e Capodanno, diciamo, ho preferito prenotare per tempo tutto questo ai primi di settembre. Prenoto un volo per il 26 dicembre. La compagnia che mi offriva appunto il volo al prezzo inferiore, al prezzo più conveniente per me, era Air Europa, quindi prenoto, contento di partire per la giornata del 26 dicembre. Diciamo, dopo circa una ventina di giorni vengo ricontattato dal sito presso il quale ho prenotato questo volo, che mi informavano che la compagnia, che Air Europa, aveva tolto il volo operativo nella giornata di sabato e che quindi avrei dovuto partire di domenica. Ho dovuto, diciamo, far slittare tutto di un giorno. Questo è stato, diciamo, il primo problema. Arriva il 27 dicembre, parto finalmente da Milano per Madrid, dove ho fatto scalo per poi ripartire da Madrid per Buenos Aires, e il volo in partenza da Madrid era previsto alle 23:55. Intorno alle 21 all'aeroporto di Madrid, sui tabelloni elettronici appare la scritta che il volo sarebbe partito alle 2:40. Intorno alle 2 solo due operatrici, tra l'altro gentilissime, dell'aeroporto di Madrid e non di Air Europa, quando hanno visto queste 250 persone che aspettavano davanti a un banco anche abbastanza insofferenti, hanno tentato di mettersi in contatto con Air Europa e ci hanno informato che il volo sarebbe partito alle 4. Ecco, io la interrompo un attimo per passare poi a quella che è un altro di servizio che lei ha subito. Stringo un po' io la sintesi perché altrimenti non riusciamo a sentire Aitai. I suoi bagagli sono arrivati con giorni e giorni di ritardo a Buenos Aires. Esatto, io arrivo a Buenos Aires, non ricevo il mio bagaglio, faccio il normale reclamo, l'operatore presso il quale ho fatto il reclamo mi ha detto: questo è il nostro numero di telefono di Air Europa, questo è quello che mi ha detto l'operatore, comunque la sua valigia è stata individuata immediatamente a Madrid, ripartirà questa sera, ecco, e domani gliela consegniamo. Ecco, invece così non è stato, sono arrivati con giorni di ritardo le valigie, il nostro radioascoltatore ha dovuto acquistare anche dei generi di prima necessità, abbigliamento di prima necessità, nel senso che ovviamente non aveva nulla, aveva dei medicinali nelle valigie che quindi per problemi di salute doveva prendere, che sono rimasti nella valigia che è arrivata con ritardo, insomma una vera e propria disavventura. Già soltanto con la prima di queste disavventure, vale a dire il volo il giorno dopo, io mi sarei inquietato e non poco. figuriamoci con tutto il resto che è successo. Dottor Aitai, direttore di mercato di Air Europa, come è stata possibile una cosa di questo genere? Quanto è frequente? Ma soprattutto a questo punto voi come potete rimediare a quello che è successo a questo e a chissà quanti altri clienti della vostra compagnia aerea, segnatamente per quel volo per Buenos Aires? Sì, prima di tutto approfitto e chiedo scusa al nostro passeggero per tutti questi disagi che sono successi. La prima cosa, l'annullamento del volo di origine del giorno 26, devo informare che non è una pratica, diciamo, giornaliera, ma succede a volte. Succede piuttosto succede per qualcun cambio nella programmazione della manutenzione dei aeromobili. È normale, se questo succede, come è successo in questo caso, 2 mesi prima della partenza, e si informa al passeggero, e il passeggero ha il diritto di accettare o non accettare la soluzione che arriva dalla compagnia. E dico che ha il diritto di non accettare, perché in questo caso naturalmente si restituiscono Certamente. Il costo del biglietto. Certamente, in ogni caso non è piacevole, perché se non viene avvertito dopo poi non è facile riprenotare, ricercare un altro aereo. Insomma, sarà anche un caso eccezionale, ma sicuramente antipatico. Come lei ha ragione, ma in questo caso, come gli ho detto, in un attimo si offre al passeggero la soluzione. Era il volo dell'altro giorno che il passeggero nostro ha accettato. Anch'io sono d'accordo che sempre cambia un po' il programma, certo, di un passeggero. Ecco, e invece quanto al ritardo nei bagagli, con i ritardi che abbiamo saputo e gli inconvenienti, vestiti acquistati, medicinali non arrivati, ecco lì come ve la cavate, con delle scuse oppure invece con qualcosa di un po' più sostanzioso? Insomma, voglio dire, io la prima cosa a cui penserei è un'analoga vacanza data gratuitamente da Air Europa, lo dico sinceramente, poi magari non sarà così. Io ho ricevuto questa reclamazione il 18 di gennaio, ho fatto tutto lo possibile per in questi giorni chiarire, non mi è arrivato ancora, non mi sono arrivate tutte le risposte. Per il momento quello che già ho potuto chiarire, la partita più tardi dell'aereo è dovuto a un problema di gestione aerea. No, ma questo l'abbiamo capito chiaramente. Allora, adesso attendiamo, rimaniamo in attesa di capire quali saranno poi l'evolversi della sua ricerca all'interno di Air Europa sul mancato arrivo dei bagagli. Avvocato Bonaguidi, tragga lei le conclusioni. Allora, in sintesi, anche poi rispettivamente alle informazioni che apprendo ora, ecco, io voglio premettere, non è un giudizio sulla compagnia, è un certo giudizio, assolutamente, chiedo ovviamente un giudizio sul caso, assolutamente, quindi, la mia opinione è sul caso e quindi cercherò di mantenermi su questo. Da quello che io sento, vorrei premettere intanto che la legge dice ed è chiara in questo senso, che la compagnia aerea è responsabile del danno inteso in generale, anche se il suo comportamento è esente da colpa. Quindi questo è un primo dato essenziale, direi, anche nella circostanza, perché, e questo lo riverserei sull'aspetto del ritardo del volo, quindi certo, quando anche il ritardo del volo fosse dettato da problemi di traffico aereo, qui c'è un problema superato e che comunque rimane a carico della compagnia. Sempre ammesso che sia così, perché certo. Il caso. Per quanto riguarda invece l'aspetto del bagaglio smarrito, credo che qui ancora una volta la responsabilità della compagnia sia insomma ineccepibile, evidente, nel senso, cioè voglio dire, incontestabile, quindi una responsabilità c'è. Poi la gravità di questa responsabilità dipende dal riversamento del smarrimento del bagaglio sulla vacanza che doveva trascorrere il turista. Quindi, ma a questo punto che cosa deve fare il nostro radioascoltatore? Ma io credo che ci siano gli estremi, insomma, tranne, cioè al di là di ciò che lui, mi è parso di capire, ha già fatto, quindi le denunce del caso come si conosce, per prassi, insomma, quindi all'ufficio Lost and Found, eccetera, quindi tutta la sequenza, io credo che abbia buon diritto di chiedere un risarcimento alla compagnia. Poi l'entità e la quantificazione dello stesso varia a seconda delle casistiche e dei danni anche che il signore riuscirà a provare in un eventuale giudizio, se si andrà in giudizio. Certo, insomma, auspico di no, insomma, certo. Entrambi, quindi alla compagnia. Va bene. E al passeggero. Allora io la ringrazio, così come ringrazio tutti per i vostri interventi. La sintesi è che o si trova una via amichevole tra la compagnia aerea e il cliente, oppure bisogna andare per vie legali. Mi auguro invece che venga battuta la prima strada, come mi pare aver capito anche è interesse di Air Europa e del suo direttore di mercato Robert Aitai. Grazie in regia Valeria Bernardi e in studio di Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.